L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti al nostro consueto riassunto dell'ultima settimana di notizie che per noi dell'ottavo giorno è cominciata sabato scorso, 28 marzo, e si è conclusa ieri. Abbiamo molti servizi, commenti e interviste già trasmessi nei nostri GR da farvi riascoltare. Il momento culminante naturalmente sarà il G20 che raduna a Londra tutti i potenti della Terra, ma andiamo con ordine. Sabato. E cominciamo dallo sport e in particolare dal calcio, perché la Serie A riposa per dare spazio alla nazionale italiana che deve giocare due partite di qualificazione per i mondiali in Sudafrica che si svolgeranno l'anno prossimo. Si comincia sabato sul velluto, direi, in Montenegro. Risentiamo in diretta, pochi minuti dopo la fine della partita, Massimo Di Scienza. Sì, sono arrivati altri tre punti importantissimi per l'Italia nella corsa alla qualificazione mondiale. Gli azzurri hanno battuto per 2-0 il Montenegro con un gol per tempo, Pirlo sul rigore all'11°. Un penalty concesso per un evidente fallo di mani di Batak, poi Pazzini che ha bagnato l'esordio in azzurro a 10 minuti dalla fine con un gran colpo di testa su cross di Pepe. 2-0 dunque Italia non bella ma sempre in controllo del match, ha creato poco soprattutto nel primo tempo a bassissimo ritmo ma ha rischiato ancora meno. Peccato per gli infortuni per Di Natale e Iaquinta, pesante soprattutto quello dell'Udinese. Mercoledì a Bari giochiamo con l'Irlanda di Trapattoni, seconda in classifica, che oggi ci ha fatto un bel regalo pareggiando in casa con la Bulgaria. Insomma, da stasera il mondiale è davvero più vicino. Tra pochissimo naturalmente vi racconteremo come è andata a finire poi a Bari, partita tra l'altro sentita soprattutto per la sfida in panchina tra Lippi e Trapattoni in questo Italia-Irlanda. Ma continuiamo a seguire il filo cronologico degli appuntamenti sportivi di questa settimana, perché domenica quasi all'alba debutta il mondiale di Formula 1 tra colpi di scena, polemiche, ricorsi, classifiche che rimangono a lungo sub iudice. Sentiamo allora Carlo Genta e poi il commento di Mario Poltronieri. Debutto con il botto per la neonata Brown che piazza la doppietta in Australia nella prima corsa della stagione di Formula 1. Vince Button davanti a Barrichello, terzo Lewis Hamilton in rimonta e complice la squalifica di Trulli. Falsa partenza per le Ferrari con Raikkonen e Massa che non terminano la corsa. Sentiamo proprio Felipe Massa. Sicuramente la Brown non avevamo neanche pensato in raggiungere, perché era impossibile, però avevamo pensato di fare una buona gara e è quello che stava succedendo fino al momento dove abbiamo preso la direzione della strategia. La strategia sicuramente non ha aiutato e mi ha fatto perdere tante posizioni dove potevo sicuramente continuare a lottare per il terzo posto e alla fine ho avuto un problema sul volante, forse power steering, qualcosa, non abbiamo capito al 100%, ma qualcosa che mi ha fatto fermare. Il verdetto sarà ufficializzato a metà aprile dai giudici della FIA che si pronunceranno su una valanga di ricorsi. In linea generale diciamo che mi è parsa più movimentata. Si è persa un po' la possibilità di valutare le modifiche che sono state apportate al regolamento. Ricordo le gomme slick, l'aerodinamica ridotta e il KERS, perché abbiamo avuto tutto il contorno diciamo di questa fantasmagorica fila di reclami contro reclami appelli e quindi abbiamo perso un po' di vista quello che tutto sommato deve essere la valutazione, anche se la valutazione definitiva su questo nuovo regolamento andrà fatta in un circuito tradizionale come quello di domenica prossima in Malesia. Comunque diciamo l'impressione iniziale è stata positiva e divertente. È chiaro che tutte queste modifiche, questi reclami lasciano un po' nel dubbio, quindi io credo che il campionato sarà sicuramente interessante. Certo, dovremo aspettare questo 14 aprile in cui, oltre a discutere di questo diffusore contestato per la Toyota, la Williams e la Brown, ci sarà anche la questione del ricorso della Toyota contro l'arretramento in 12ª posizione di Trulli. In realtà il risultato finale del Gran Premio d'Australia cambierà poi nel volgere di pochissimi giorni, lo racconteremo anche questo, insomma, ma noi continuiamo adesso il nostro palleggio tra calcio e Formula 1 e torniamo agli impegni della nazionale di Lippi. Mercoledì sera a Bari gli azzurri giocano contro l'Irlanda di Trapattoni. Sentiamo allora come è andata a finire con Dario Ricci. Doveva essere la serata del via libera verso Sudafrica 2010, ma a Bari l'Irlanda di Trapattoni blocca l'Italia campione del mondo sull'1-1 e costringe Cannavaro e soci a a rinviare la festa. Il San Nicola inneggia Cassano e fischia Lippi, ma dopo appena 3 minuti ci pensa l'arbitro Stark a ricompattare il tifo azzurro con la sorprendente espulsione di Pazzini dopo un traversone su cui il sampdoriano sgomita con Oshì. Ma gli azzurri reagiscono e al 10° Iaquinta infila Given con un tocco sotto misura. Da quel punto gli azzurri amministrano, gli irlandesi sfiorano il pari con 2 bordate di Hunt e Kilbane, ma Buffon dice no. Ma a 5 minuti dalla fine l'ex interista Robbie Keane a pescare l'1-1 in mischia e nel recupero gli irlandesi sfiorano il colpaccio. Il Trap torna a Dublino col punto che cercava. Per l'Italia via libera per il mondiale sudafricano solo rimandato, sperando di non dover recriminare troppo per gli errori di Stark e la vittoria sfumata in volata. Una volta tanto qui all'ottavo giorno parliamo anche di basket, anche se non lo dobbiamo fare per delle belle notizie per la pallacanestro italiana. Infatti Siena, che è imbattuta nel nostro campionato, in Europa non è più così irresistibile, ricorda un po' l'andamento dell'Inter nel calcio, se vogliamo. Ed ecco infatti che cosa succede giovedì con il servizio di Massimo Sollazzini. Siena, a casa del basket italiano, esce dalla scena europea. Non basta la passione secolare di 8.000 persone per buttare il cuore oltre l'ostacolo, se questo è forte, esperto e greco, che di questi tempi probabilmente conta. Al Palaslavo ieri sera è finita 84-91 col Panathinaikos a far la lepre e la Montepaschi illusa sul più 3, 62-69 a metà dell'ultima frazione. È il verdetto da pronostico e gli ospiti l'hanno legittimato. Squadra inviolabile in gara 3, ieri ha contato più sui singoli, su tutti un Nicolas da 19 punti e col 5-7 dalla lunga, sfoderato soprattutto quando contava. McIntyre ne segna fino a 35, che a niente servono però quando Domerkant butta via 2 tra le ultime azioni utili o Kapenas è poco lucido quando c'è da esserlo. Arbitraggio controverso, ma il peggio lo si era visto in gara 2 ad Atene, l'unica paradossalmente che la Menzana ha vinto. E allora, come promesso, torniamo alle turbolenze della Formula 1. Abbiamo già detto che l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Australia di fatto è del tutto inaffidabile. Giovedì infatti arriva un nuovo colpo di scena, questa volta ai danni addirittura del campione del mondo Hamilton. Ancora Dario Ricci. Passano i giorni e l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Australia, che tra l'altro, lo ricordiamo, sarà ufficializzato solo il 14 aprile, quando la FIA dirà la sua sulla vicenda dei diffusori irregolari, continua a cambiare. La novità di giornata è la restituzione del terzo posto alla Toyota di Jarno Trulli a danno di Lewis Hamilton, il contrario di quanto deciso nel dopogara domenica, quando all'italiano era stata inflitta una penalizzazione di 25 secondi per aver superato proprio l'alfiere della McLaren in regime di safety car. Decisione ribaltata ora dai commissari della Federautomobile alla luce di nuovi elementi. Sono state infatti ascoltate le conversazioni via radio tra Hamilton e la McLaren durante la gara e i giudici hanno riscontrato un comportamento antisportivo da parte del team inglese e del suo pilota, che si sarebbero accordati per far passare avanti Trulli e indurlo così all'errore. Da qui la squalifica del campione del mondo, che resta così a 0 punti in classifica, in attesa, ovviamente, del prossimo ribaltone a tavolino. L'ottavo giorno. Domenica. Si conclude il rito di fondazione del Partito delle Libertà, il nuovo soggetto politico che nasce dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale. Il leader, il principe, il monarca del partito, chiamatelo voi come vi piace, è sempre lui, Silvio Berlusconi, che apre e chiude la 3 giorni di congresso. Radio 24 segue attentamente il congresso con più inviati mandati alla Fiera di Roma. Noi sentiamo questo lungo ma dettagliato resoconto di Elisabetta Fiorito, che davvero racconta tutto. Arrivano accompagnati dallo stacchetto musicale, meno male che Silvio c'è, il leitmotiv della 3 giorni alla Fiera di Roma, stacchetto in versione strumentale in una kermesse dove mancano ancora l'inno e le bandiere del nuovo partito. Ma i delegati del Popolo della Libertà non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà, prima tra tutti quella dei parcheggi, dove saranno anche le multe a fioccare in libertà. Il Popolo di AN Forza Italia guarda con entusiasmo all'apertura dei lavori, come racconta al microfono di Paola Anania. Ovviamente le aspettative sono moltissime, ci si chiede come funzionerà, se funzionerà bene, noi ce lo auspichiamo anche perché comunque un grande partito può avere anche varie anime. Un po' di nervosismo però c'è ed è quello di AN, tanto che Maurizio Gasparri litiga con i giornalisti che gli chiedono se non c'è il rischio che Alleanza Nazionale finisca inglobata in Forza Italia, ma intanto ci si prepara all'inizio. Breve introduzione di Anna Grazia Calabria, la più giovane deputata del Popolo della Libertà, seguita dalle testimonianze di 4 giovani che inneggiano a Silvio come Giada.

è un uomo vecchio dentro. Quanto alle riforme istituzionali chieste da Berlusconi, siamo pronti a parlarne, dice Franceschini, ma per farle ci sono ancora 4 anni di legislatura, la priorità ora è la crisi. C'è ancora altro naturalmente da segnalare in questa settimana politica, direi prima di tutto l'intervento a piedi uniti del CSM in tema di ronde e sicurezza. Raffaella Calandra. Il CSM boccia il decreto sicurezza, dalle ronde alle norme sugli stranieri fino a quelle antistupro. Parzialmente incostituzionale, considera Palazzo dei Marescialli assegnare la tutela della sicurezza ai privati, a cui sarebbe concessa troppa discrezionalità nella scelta dei casi da segnalare. Due soprattutto i rischi ipotizzati nella bozza messa a punto dalla sesta commissione: il pericolo di incidenti, ma anche quello della commissione di reati. Anche se nel testo è messo nero su bianco che i cittadini non devono essere armati, non si escludono altri oggetti comunque in grado di offendere. Il CSM considera poi irrazionale e irragionevole sotto il profilo tecnico estendere ai reati di tipo sessuale quella norma usata per la mafia che impone l'arresto in flagranza. L'ultima bocciatura riguarda gli stranieri irregolari, per i quali si allunga da 2 a 6 mesi il tempo di permanenza nei centri di identificazione. Il decreto va dal governo e in via di conversione alla Camera violerebbe le direttive comunitarie che autorizzano di trattenere il clandestino, avverte Palazzo dei Marescialli, solo se fa resistenza alle forze dell'ordine. Visto che stiamo parlando di politica, sicuramente avrà un forte significato politico la manifestazione della CGIL oggi a Roma contro le misure anticrisi del governo. Ci sarà anche il segretario del Partito Democratico Franceschini e forse altri membri del PD in piazza. Tra l'altro ieri, proprio parlando di politica, di crisi, di economia, tutto insieme, il fisco ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi del 2007. La media italiana è di 18.324 euro. In settimana, intanto, si è sbloccata la questione del piano casa, come ci spiega questo servizio di Andrea Viali. Possibilità di ampliare fino al 20% i volumi delle ville mono e bifamiliari e delle palazzine fino a 1000 metri cubi, ampliamento del 35% invece per le costruzioni abbattute e ricostruite con criteri di risparmio energetico. Queste le misure principali del piano casa che le regioni dovranno ora tradurre in legge entro 90 giorni. In caso contrario potrà subentrare il governo, che a sua volta dovrà varare un decreto per semplificare alcune norme edilizie. Dal piano sono esclusi condomini e abitazioni nei centri storici. A mettere l'ultima parola sui limiti degli interventi saranno comunque le regioni, ha precisato il ministro Fitto. Ogni regione, nella sua piena autonomia, può tranquillamente provvedere legislativamente, se lo dovesse ritenere, andando oltre quelli che sono le indicazioni che emergono da questo accordo. Se il 10% dei proprietari di casa approfitterà del piano, nel circuito economico entrerebbero fra i 60 e i 70 miliardi di euro, ha detto il premier Berlusconi, che ha poi rilanciato il progetto delle cosiddette New Town, insediamenti da costruire nei pressi di ogni capoluogo di provincia destinati a chi oggi non è in grado di acquistare una casa, in particolare alle coppie di giovani. Lunedì. Giornata a suo modo storica per la Fiat, perché anche il presidente americano Obama, dopo aver di fatto fatto fuori, scusate il gioco di parole, almeno dal punto di vista lavorativo, il numero uno della General Motors, Rick Wagoner, dice sì anche Obama all'accordo tra la casa torinese e la agonizzante Chrysler, quindi la fusione ormai è vicina. Sentiamo i dettagli con Sergio Nave e poi l'analisi, che anche dei risvolti, bisogna dirlo, divertenti, di Mario Platero. La reazione più importante è arrivata pochi minuti dopo la fine del discorso di Barack Obama, il quale era stato esplicito nell'indicare l'alleanza tra Fiat e Chrysler come condizio sine qua non per erogare altri 6 miliardi di aiuti alla casa automobilistica americana. Poco dopo, un comunicato di Chrysler, pur non ufficializzando l'alleanza, ne definiva comunque il quadro strategico. Entro 30 giorni la partnership dovrà essere operativa. Questa è la scadenza indicata dalla Casa Bianca. Now start with General Motors. Obama ha parlato a lungo anche dell'altra grande malata General Motors. Dopo aver imposto l'uscita di scena di Richard Wagoner, la Casa Bianca ha dato ieri 2 mesi di tempo per sottoporre un nuovo piano di ristrutturazione e taglio dei costi. Fino a quel momento garantirà il capitale necessario per mantenere la società operativa. Tra le altre misure presentate da Obama, la nomina di Edward Montgomery a supervisore dell'operazione di ristrutturazione del settore auto, insieme a sgravi fiscali per chi acquista vetture e incentivi a chi rottamare città, ma quelle a maggiori emissioni inquinanti. Quello di ieri ha perso un vero e proprio ultimatum al settore, una tregua di pochi giorni per ristrutturarsi o affrontare la bancarotta pilotata e controllata dal governo. Un'opzione che l'attuale amministrazione non esclude per accelerare i processi di ristrutturazione in atto e liberarsi dei vecchi debiti, anche se, precisa Obama, non possiamo permettere che la nostra industria automobilistica sparisca. Gli americani sono perplessi, ricordano le vecchie Fiat anni 70, le 128 verde pisello che si arrugginivano facilmente, con avviamenti ostici alle temperature artiche degli inverni americani, con la perfidia di allora, coniarono qualche acronimo, Fiat era fix it again Tony, riparala di nuovo Tony, dove Tony era il tipico italoamericano e si doveva usare l'inflessione particolare, Tony, ce ne siamo andati, ma oggi la Chrysler non ha come le concorrenti Ford e GM succursali europee con fabbriche in grado di produrre modelli di piccola cilindrata, basso consumo, calibrati sul mercato europeo, non ha una distribuzione europea e non ha una distribuzione in Sud America. Fiat porta tutto, tecnologia e accesso ai mercati. Marchionne ha avuto il colpo di genio, si è inserito al momento giusto. Se si concluderà bene, la Fiat non solo avrà un pacchetto azionario Chrysler, ma tornerà in America coi suoi modelli. Se avrà avuto ragione Obama, forse qualcuno dovrà ripensare all'acronimo. Una rivista ne ha già trovato uno. Fiat per Find Italy and Triumph. Trova l'Italia e vinci. L'ottavo giorno. Martedì. Un ritorno al passato improvviso è quello che ci costringe a fare Mario Chiesa, colui che diede inizio a suo modo, ormai molti anni fa, a Tangentopoli. Martedì, infatti, Chiesa torna in prima pagina per motivi di fatto molto simili. Sentiamo Giovanni Capuano. Una personalità criminale intenta ad accaparrarsi lavoro solo per gonfiare fatture e documenti. Così i carabinieri del NOE e la procura di Busto Arsizio descrivono Mario Chiesa dopo mesi di intercettazioni che l'hanno portato in carcere con l'accusa di trafficare illecitamente rifiuti speciali. Un'operazione tra Lombardia e Piemonte che porta nuovamente sotto la luce dei riflettori 17 anni dopo l'uomo che nel 92 con il suo arresto fece iniziare la stagione di Mani Pulite. Secondo gli investigatori però la sua seconda vita era molto simile alla prima, con una rete di complici ricompensati con benefits vari per omettere i controlli e conoscenze e appoggi sufficienti, ad esempio, a far cancellare due gare pubbliche perse. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, Luca Gaglio. Il ruolo di Mario Chiesa è quello di sfruttare le proprie conoscenze, sia imprenditoriali che politiche, per ottenere appalti. Si dice il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ieri all'alba al blitz per Mario Chiesa si sono riaperte le porte di San Vittore, ricoverato nel centro clinico per motivi di salute. Oggi il primo interrogatorio. Chiesa è già stato interrogato più di una volta in questa settimana, l'ultimo interrogatorio anche ieri. Faccio notare, tra l'altro, che a difendere Chiesa c'è anche l'avvocato Massimo Di Noia, che, tra le altre cose, fu difensore, guarda caso, di Antonio Di Pietro negli anni 90, fu impegnato in 3 inchieste della Procura di Brescia, che poi si conclusero nel modo migliore per Di Pietro. Ma ricordiamo chi era e chi è Mario Chiesa in questo ritratto di Raffaella Calandra nel GR Extra Large di martedì. Ingegnere, perché erano soldi? Qua. 17 anni dopo Mario Chiesa torna a San Vittore. Qualche ruga sul viso e dei capelli bianchi in più, ma l'accusa è ancora la stessa, tangenti. Agente di primo piano della Camera. Mario Lodigiani, vicepresidente. Allora era il presidente del Pio Albergo Trivulzio. Oggi, secondo i PM, sarebbe il regista delle operazioni della società ecologica amministrata dalla moglie. Allora, all'apice del potere politico c'era Bettino Craxi e Milano era quella da bere sulla terrazza Martini. Oggi in Italia, dopo le macerie della Prima Repubblica e la demonizzazione di quegli anni, Tangentopoli è storia e Milano, come il resto del paese, è appannata dalle nebbie della crisi. Membro del consiglio di amministrazione della. Era il 17 febbraio 1992 quando l'ingegnere socialista venne arrestato in flagranza dopo aver ricevuto 7 milioni da un'impresa di pulizia. A portarglieli Luca Magni, che così commenta dai microfoni di 24 Mattino il nuovo arresto. Ho pensato, nonostante sia sicuramente garantista, che probabilmente ha messo a frutto la sua esperienza negli anni. Secondo me la corruzione non è tanto nei sistemi, nei partiti, ma è nell'uomo. Quel giorno Magni aveva un microfono nascosto e fuori ad aspettare c'era un giovane sostituto procuratore, Antonio Di Pietro, poi è entrato in Parlamento come un altro membro del pool, mentre un terzo ha lasciato la toga. 17 anni fa quella bustarella fece crollare un mondo politico a colpi di avvisi di garanzie, carcerazioni e scandali, e a svelare per primo il sistema del finanziamento occulto ai partiti fu proprio Magni. Mario Chiesa, poi condannato a 5 anni e 4 mesi con i riti alternativi dopo aver restituito 6 miliardi. Un mariuolo isolato, lo additò Bettino Craxi. Ma ben presto l'onda lunga delle tangenti travolse anche lui e il suo partito sotto le monetine lanciate davanti al Rafael. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Crollava così la Prima Repubblica e per anni Chiesa è rimasto nell'ombra rifiutando ogni intervista. Ora torna alla ribalta della cronaca. Mercoledì. E ora andiamo a Londra, dove si accendono i riflettori del G20, l'avvenimento cardine di questa settimana. I leader dei paesi più ricchi del pianeta si danno appuntamento nella capitale inglese per cercare di mettere a punto una ricetta, almeno per arginare la peggiore crisi economica da 80 anni a questa parte. Molte le attese, alcune eccessive, alcune persino messianiche. Sentiamo intanto con che idee arriva a Londra il governo italiano con Vincenzo Miglietta. La definisce una crisi globale, ma passeggera, non ne nasconde tuttavia né la durata né le conseguenze. Chiudendo i lavori del Social Summit dei ministri del lavoro del G8, il presidente del Consiglio Berlusconi si mostra per la prima volta preoccupato dalla difficile congiuntura internazionale. Avremo, spiega il premier, due anni e mezzo ancora di difficoltà con serie ripercussioni sull'occupazione. Si parla addirittura di 20 milioni di posti di lavoro in meno per il 2010 e quindi è chiaro che questa sia una grande preoccupazione per tutti i governi. Governi che secondo Berlusconi devono a questo punto garantire la coesione sociale. Da qui la proposta di un social pact ai membri del G20 prima e del G8 poi. Noi comunque stiamo facendo di tutto per aiutare famiglie, imprese e lavoratori, spiega il premier. Ho detto, noi usciremo dalla crisi senza lasciare indietro nessuno. Credo che lo Stato abbia questo dovere innanzitutto. Siamo pronti ad andare anche oltre, dice Berlusconi, anche intaccando deficit e debito. Poi alcune anticipazioni, più fondi per gli ammortizzatori sociali, incentivi per le nuove forme di imprenditoria con l'esclusione della tassazione per i primi 3 anni. Sulle stime OCSE infine il cavaliere lapidario. Prima non prevedono nulla, poi arrivano a fare previsioni un giorno sì, un giorno no, tutte negative, ma statevi zitti. Entriamo nel vivo del summit. Mercoledì si segnala soprattutto, direi, il dinamismo di Obama, il capo di Stato in fondo più atteso, assieme forse al cinese Hu Jintao, anche perché chi se non loro ci possono salvare da questa crisi. L'agenda di Obama è fittissima, quasi pazzesca, c'è un incontro dietro l'altro con i big della terra, fino a poi a chiudere la serata con l'incontro con la regina Elisabetta, alla quale, pensate, Obama regala addirittura un iPod. Ma sentiamo il racconto di questa ricca giornata di Obama con Cristina Balotelli. If you look at the sources of this crisis, the United States certainly has some accounting to do with respect to a regulatory system that was inadequate. Alla vigilia del G20 di Londra, Barack Obama ammette che agli Stati Uniti va imputato di aver innescato la crisi finanziaria. Lo fa dopo un incontro con il premier britannico Gordon Brown, nel corso del quale ha posto l'accento sul lato umano della crisi, ribadendo la necessità di affrontare il momento attuale con una strategia comune e di respingere le tentazioni protezionistiche. Prime Minister Brown spoke about the human dimensions. Anche Gordon Brown ha posto l'accento sull'importanza di lavorare insieme. Never before has the world come together in this way to deal with an economic crisis. Si tratta di una crisi senza precedenti, ha detto. Ecco perché serve una soluzione globale. Nel pomeriggio Obama ha avuto il primo incontro faccia a faccia col presidente russo Dmitry Medvedev. In primo piano la riduzione degli arsenali nucleari, che rientra tra gli interessi comuni, queste le parole di Obama, dei due paesi. Il presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno chiesto interventi concreti per una maggior regolamentazione finanziaria. Purtroppo il G20 di Londra è segnato anche da una notizia gravissima, dalla morte, sempre nella giornata di mercoledì, di un manifestante, insomma in un clima molto caldo, fuori dai palazzi delle discussioni del G20. Questo è l'intervento che aggiorna un po' la situazione dell'inviato Sergio Nava in diretta nel GR delle 7 di giovedì. La notizia notizia arrivata poco prima della mezzanotte italiana, al termine di una giornata, come dicevate, caratterizzata da scontri concentrati soprattutto nella zona della Banca d'Inghilterra, dove sono confluite quattro manifestazioni distinte. La situazione è degenerata quando nel primo pomeriggio un drappello di manifestanti si è staccato e ha attaccato la Royal Bank of Scotland. 32 gli arresti alla fine della giornata, una giornata conclusasi appunto con il ritrovamento di un uomo, pare un manifestante, trovato senza sensi e privo di vita nella via di San Michael Alley. Su questo abbiamo sentito anche il premier Silvio Berlusconi al suo rientro in albergo dopo la cena dei 20 leader mondiali a Downing Street. Sentiamo. È una brutta notizia. Noi non abbiamo saputo niente, l'ho saputo adesso, mentre stavamo, diciamo, insieme. La crisi è in qualche modo il convitato di pietra di questo G20, ma la crisi intanto si fa sentire già in tutto il mondo, scatena addirittura tensioni sociali e per qualcuno potrebbe persino portare alla rivolta di piazza. In Francia, ad esempio, la crisi alimenta episodi che sconfinano nella cronaca. Ci racconta tutto da Parigi Igor Fiatti. Un sequestro e un quasi sequestro. Tutto in Francia e tutto nel segno della crisi. Mentre a Grenoble alcuni manager della Caterpillar da ieri sono tenuti in ostaggio dai dipendenti nella sede dell'azienda, a Parigi anche il miliardario François-Henri Pinault è stato sequestrato da un centinaio di dipendenti. In questo caso però, più che di sequestro, si deve parlare di assedio. Pinault, infatti, è stato bloccato per un'ora mentre lasciava un incontro fra dirigenze e lavoratori a bordo di un taxi, ma a risolvere tutto ci ha pensato l'intervento della polizia. E il probabile movente di questa azione è il piano che prevede un taglio di 1200 dipendenti in due aziende del gruppo di Pinault. A Grenoble, invece, alla base del sequestro, c'è il taglio di oltre 700 persone. E qui la cronaca registra la liberazione di uno dei quattro manager sequestrati, che è stato rilasciato per motivi di salute. Completo il resoconto di Fiatti, aggiungendo che poi alla fine i manager sono stati fortunatamente rilasciati. Noi, per concludere questa parte dell'ottavo giorno, torniamo a Londra con Sergio Nava, che in questo servizio analizza le conclusioni del G20 di giovedì, e poi sentiremo il commento di Fabrizio Galimberti. The old Washington consensus is over. Il vecchio consenso deciso da Washington è finito. Oggi abbiamo raggiunto un nuovo consenso comune per la ripresa e l'occupazione. È stato un Gordon Brown trionfante quello presentatosi ieri alla stampa per illustrare le conclusioni del G20. L'accordo principale lo si è raggiunto sugli aiuti di emergenza all'economia mondiale, pari a 1.100 miliardi di dollari. La parte più significativa andrà al Fondo Monetario Internazionale, che vedrà triplicate fino a 750 miliardi le risorse disponibili. Tra queste, 250 miliardi saranno messi in circolo dall'FMI attraverso gli Special Drawing Rights, che rafforzeranno le riserve in valuta estera dei paesi associati. 100 miliardi saranno concessi alle banche multilaterali per prestiti finalizzati a progetti per lo sviluppo. Infine, altri 250 miliardi sono stati allocati a sostegno del commercio internazionale. In agenda pure la lotta al protezionismo e ai paradisi fiscali. Sul primo fronte i 20 hanno ribadito il loro no, mentre sui centri offshore si sono scaldati gli animi dietro le quinte, con uno scontro sfiorato tra Francia e Cina. Maggiore controllo anche sugli hedge funds e sulle agenzie di rating. Brown ha valutato in 5.000 miliardi di dollari lo stimolo globale all'economia messo in campo dai governi fino al 2010. Felice per l'esito del summit, Barack Obama, che ha definito il suo primo vertice internazionale come storico e produttivo. Obama ha mostrato al mondo il volto di un'America superpotenza scesa dal piedistallo per ascoltare e cooperare con le altre nazioni. Qualsiasi sarà l'effetto delle misure decise, il G20 un risultato l'ha ottenuto. Il mondo ha ora una nuova governance allargata anche ai paesi emergenti, e in questa sede che d'ora in poi si scriveranno le regole. La reazione dei mercati al G20 di Londra è stata più che favorevole, data la strutturale tendenza degli operatori a trovare motivi di sgomento più che di conforto in quel che fanno o non fanno i potenti della terra. Vuol dire che c'è stato qualcosa di buono in questa kermesse londinese, e in effetti molti dei risultati sono di tutto rispetto. Alcuni esulano dal consesso del G20, le borse sono state incoraggiate anche da una decisione degli organismi contabili americani che dava più elasticità alle banche nei criteri di valutazione dei titoli, ma il G20 ha fatto di più, mettendo sul tavolo soldi freschi. I paesi si sono impegnati a triplicare le risorse del Fondo Monetario, risorse che serviranno a molti paesi poveri per restare a galla pur nel gorgo della crisi. Insieme ad altri fondi sono 1.100 i miliardi di dollari che si aggiungono ai forzieri e riservati al pronto soccorso finanziario. Soprattutto il G20 è soddisfatto per la concordia e l'urgenza. Oltre ai soldi veri, i mercati hanno bisogno di sapere che ai vertici vi è la consapevolezza della gravità della situazione e la volontà comune di uscire dalla recessione, mettendo da parte attriti e differenze. Di questo comune sentire è stata data contezza e questo forse è il risultato più importante del vertice. Ieri i ministri delle finanze dell'Unione Europea, che sono riuniti a Praga per le riunioni informali di Eurogruppo ed Ecofin, hanno apprezzato le decisioni prese a Londra durante il G20. Anche Trichet, il gran capo della Banca Centrale Europea, ha avuto parole di elogio per le misure anticrisi del G20. L'ottavo giorno. Giovedì. Si riaccende un tema che in realtà è da tantissimi anni caldo e controverso, quello legato alla legge 40 sulla fecondazione assistita. Tutto nasce da una decisione che appunto fa molto discutere della Consulta. Ce la spiega Valeria De Rosa. Sulla carta si tratta di una bocciatura parziale, nei fatti però smonta l'impianto della legge. È illegittima la restrizione a 3 del numero di embrioni che è possibile impiantare ed è incostituzionale il dettato della legge nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna, il che vuol dire che bisogna tener conto delle condizioni della paziente e poi decidere se e quanti embrioni sia in grado di accogliere. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso su altre parti. Resta il limite posto alla revoca della volontà di accedere alle tecniche di fecondazione assistita, limite fissato al momento della fecondazione dell'ovulo, così come resta il divieto di crioconservazione di embrioni e il divieto di riduzione di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge. Immediato lo scontro tra gli schieramenti. Per la maggioranza la sentenza della Corte pone un grave problema di democrazia e il sottosegretario al welfare, Eugenia Roccella, fa sapere che arriveranno nuove linee guida per i centri. Soddisfatta invece l'opposizione, che ha ritrovato nella bocciatura da parte della Corte le perplessità sollevate fin dall'inizio. Su questo argomento giovedì prende posizione nettissima il presidente della Camera Fini, che già all'epoca del referendum sulla fecondazione assistita aveva una posizione non in linea, non ortodossa, secondo la scelta invece del suo partito e della coalizione di centrodestra. Vincenzo Miglietta. Plaude alla sentenza della Corte Costituzionale, punta il dito su una legge che a suo dire si basa su dogmi di tipo etico-religiosi. È un commento quello del presidente della Camera, che non lascia spazio ad interpretazioni. Per Fini la Consulta rende di fatto giustizia alle donne italiane, specie in relazione alla legislazione di tanti paesi europei. Quando una legge si basa su dogmi di tipo etico-religiosi, spiega Fini in una nota, è sempre suscettibile di censure di costituzionalità in ragione della laicità delle nostre istituzioni. La posizione del presidente della Camera trova facile sponda nei radicali, in alcuni laici del PDL e in gran parte dell'opposizione, così la Finocchiaro PD. Da questo momento in poi un ripensamento anche sul modo con cui si legiferi su questi temi sarebbe d'obbligo. La legge 40 è oscurantista ed incostituzionale, commenta Di Pietro. No alla strumentalizzazione della Consulta, replica però dal Popolo della Libertà Quagliariello. Far riflettere che alcuni rappresentanti del popolo esultano è la prova di un atteggiamento ideologico che non ha nemmeno la precauzione di conoscere prima come stanno le cose. Per governo e maggioranza di fatto non cambia nulla, l'impianto della legge resta invariato, dicono il ministro Carfagna e il capogruppo del PDL Gasparri. Critico Confini, l'UDC si rispetti il Parlamento, spiega Casini. Il giorno dopo Fini, cioè ieri, è il presidente del Senato, Schifani, a intervenire. La sua posizione invece è completamente opposta, infatti Schifani è a favore della legge 40. Però insomma, al di là delle posizioni pro o contro, ascoltiamo questo servizio di Alessandra Tedesco, che fa una breve indagine sul fenomeno della fecondazione assistita e soprattutto si concentra su quello che attende le coppie che sognano di avere un figlio. Sentiamolo. In un mese quasi 400 coppie italiane sono andate all'estero per la procreazione assistita. I dati provengono da 20 centri per la fecondazione che si trovano nei 6 paesi europei più gettonati per il cosiddetto turismo procreativo: Spagna, Svizzera, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca e Danimarca. La maggior parte delle coppie, il 36%, arriva dall'Italia. In 8 casi su 10 si tratta di coppie sposate. In media le donne hanno 38 anni. Ma cosa le spinge ad andare all'estero? Anna Pia Ferretti, direttore scientifico del SISMER. Nella maggior parte dei casi perché avevamo bisogno di trattamenti vietati in Italia, circa 5-6 su 10, però un buon numero sono andate all'estero per dei trattamenti che in Italia sono fattibili con i limiti della legge 40, quindi le coppie pensavano che andando all'estero potessero avere maggiori possibilità di successo. I trattamenti vietati sono la fecondazione eterologa, ossia con la donazione di seme o dell'ovocita, e la diagnosi preimpianto. Con la decisione della Corte Costituzionale, che apre di fatto anche uno spiraglio per la diagnosi preimpianto, i viaggi all'estero diminuiranno. Per ora però i centri per la fecondazione preferiscono aspettare le motivazioni della sentenza e capire l'indirizzo che prenderà il legislatore. Venerdì. Per il nostro ultimo giorno della settimana ci concediamo un po' una chiusura variegata di esteri, succede molto fuori dall'Italia in settimana, al di là poi del G20. Per esempio anche ieri a Strasburgo c'è stato il vertice della NATO, è cominciato il vertice della NATO con un Obama scoppiettante che era la sua prima ed è alla sua prima partecipazione. Poi in settimana bisogna ricordare Netanyahu, che ha finalmente formato il nuovo governo di Israele dopo lunghissime e estenuanti trattative, e bisogna anche dire che il neo ministro degli esteri Lieberman si è subito segnalato per le sue parole di fuoco pesantissime sulle colonie e sui territori occupati. Non è direi un buon inizio per chi pensa, per chi si preoccupa del processo di pace con i palestinesi. Ma in settimana notizie arrivano anche dalla Turchia, perché domenica si vota in Turchia, è un test importante soprattutto per Erdogan. Sentiamo allora in diretta da Istanbul nel GR delle 7 di lunedì Marta Ottaviani. Erdogan vince ma non trionfa. Il leader del Partito Islamico Moderato ha raccolto alle amministrative il 39% dei consensi. Un voto che, ricordiamolo, si è svolto in un clima poco sereno e costellato da scandali, imprevisti e numerosi episodi di violenza che solo ieri hanno provocato la morte di 6 persone e il ferimento di oltre 100 in scontri fuori dai seggi. Il premier e il suo partito per la giustizia e lo sviluppo hanno perso il 7% e il 2% rispetto alle politiche del 2007 e alle amministrative del 2004. A tradire Erdogan sono stati proprio i voti dei curdi, su cui il premier islamico moderato contava maggiormente, e che invece hanno scelto il partito curdo per la società democratica. Da segnalare il testa a testa a Istanbul, dove lo spoglio è ancora in corso, ma dove la città sembra finita definitivamente nelle mani dell'AKP, appunto il partito di Erdogan, ma dopo una dura lotta con il CHP, il Partito Repubblicano del Popolo di ispirazione laica. Purtroppo lunedì dobbiamo registrare invece l'ennesima tragedia del mare. Le vittime sono sempre centinaia di immigrati disperati al largo della Libia. La cronaca di quanto succede è di Anna Rita D'Ambrosio. A bordo c'erano 257 immigrati partiti da un sobborgo di Tripoli. Dopo 3 ore di navigazione, il battello su cui viaggiavano sarebbe affondato 30 chilometri al largo della Libia. Notizie non confermate, anzi ridimensionate dal ministro dell'interno libico. Nessuna conferma anche per la seconda notizia, sempre di fonte libica, il salvataggio da parte di una nave cisterna italiana nello stesso tratto di mare di 350 clandestini. Una cosa è certa, i viaggi della speranza verso l'Italia sono ripresi in maniera massiccia. Oltre 400 extracomunitari sono sbarcati a Lampedusa, aggiungendosi ai 222 di domenica. Sbarchi che, ha assicurato il ministro dell'interno Maroni, termineranno il 15 maggio prossimo, quando entrerà in vigore l'accordo siglato dal governo italiano con quello libico sul pattugliamento congiunto delle coste. Chiudiamo come sempre con l'ottava notizia della settimana, questa volta è una buona notizia soprattutto per chi viaggia in treno. Infatti martedì arriva un annuncio, direi molto interessante, di Trenitalia. Chiara Di Michele. Da oggi con i treni ad alta velocità si potrà viaggiare fra Milano e Roma anche a 33 euro e con soli 5 euro in più arrivare fino a Napoli. Le nuove tariffe scaccia crisi di Trenitalia vantano sconti fino al 60% sul prezzo standard se si prenota almeno un mese prima, riduzioni del 30% se l'anticipo è di 2 settimane, mentre se si acquista il viaggio fino a 7 giorni prima della partenza lo sconto sarà del 15%. In soffitta il vecchio tariffario e il biglietto a prezzo fisso. Mauro Moretti, amministratore delegato Ferrovie dello Stato. Abbiamo davanti una stagione estiva che per l'Italia vuol dire turismo, e quindi il significato è stato quello di rimboccarci le maniche, dare la possibilità di avere un'offerta a prezzi molto bassi per molti posti in 12 destinazioni importanti per l'Italia, sia il sud che il centro che il nord, città d'arte, città balneari, quello che il mercato turistico mondiale chiede all'Italia in questo periodo. L'offerta è per 250.000 posti al mese, tra le novità anche un pacchetto treno più auto con l'auspicio di realizzare pacchetti integrati aereo-treno con Alitalia. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno, ottavogiorno@radio24.it per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo, come sempre alle 10 o in replica alle 23.